Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera vi propongo un romanzo sui libri, anzi sugli editori, e come ha osservato ironicamente un giornalista britannico recensendo il libro di cui adesso vi parlo, già è difficile convincere la gente a leggere i libri, figuriarsi i libri sugli editori. E in realtà questo libro riesce a farsi leggere ed è un libro molto appassionante, anche perché ne è autore uno dei più importanti editori americani, Jonathan Galassi, che è uno degli autentici protagonisti dell'editoria degli Stati Uniti, attualmente presidente di uno dei marchi più famosi, cioè Farrar, Straus e Giroux, ed è anche lui stesso poeta, nonché traduttore di Leopardi e di Montale in inglese. Il libro che ha scritto si intitola La Musa, è pubblicato da Guando, 250 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Silvia Pareschi, e questa è la sua prima opera narrativa, uscita da poche settimane negli Stati Uniti e adesso pubblicata in Italia. Un libro ambientato nella New York degli editori, un mondo che affascina il protagonista Paul, che continuerà a lavorare presso uno dei più celebri editori di quel mondo, Homer Stern, divorato per tutta la sua carriera dall'invidia e la competizione con un altro grande editore, Sterling Wainwright. E naturalmente i lettori americani hanno riconosciuto in questi due personaggi degli autentici protagonisti dell'editoria statunitense. Una delle cause di maggiore scontro tra i due editori è la poetessa Ida Perkins, un assoluto mito letterario, un'autentica leggenda pubblicata da Sterling, che alla fine viene incontrata da Paul a Venezia, dove la poetessa si è ritirata a vivere. E qui il libro prende una direzione diversa. Troveremo molte rime attribuite alla poetessa, che si rivelerà essere un'invenzione letteraria, e la svolta che questo incontro determina sulle sorti della casa editrice e dello stesso Paul. Ma adesso sentiamo l'autore. Buonasera Jonathan Galassi. Buonasera signor Carrubba, è un piacere essere con lei. Grazie Jonathan Galassi. Il suo libro comincia dicendo che questo libro è una storia d'amore, una storia d'amore per i libri e per i lettori. Ecco, l'amore però è un sentimento vivo, è più amore o più nostalgia per un mondo che sta diventando sempre più difficile, quello dei libri e della lettura? C'è molta nostalgia nel libro, ma anche amore, perché la storia continua. Ci sono adesso molti bravissimi scrittori, forse un po' meno lettori che prima, ma noi andiamo avanti con l'edizione e continuiamo ad amare gli autori. E qui nel suo libro ci sono due figure quasi leggendarie di editori, Homer e Sterling. E che anime rappresentano dell'editoria queste due figure? Sono basati su persone reali, ma li ho cambiati per il motivo del libro, ma rappresentano un'attitudine verso la letteratura che è molto devota. Sono fieri, sono egoisti, ma amano gli autori veramente profondamente. Sono il simbolo di un'editoria che non diciamo non c'è più, però insomma sta molto cambiando. Infatti lei a un certo punto nel libro parla di un paradosso, cioè il fatto che gli editori oggi preferiscono, più che lanciare cose veramente nuove, come scrive lei, cavalcare il gusto dei lettori. Ecco, questa tendenza dell'editoria che cosa sta portando? C'è sempre stato una scelta da fare tra menare i lettori verso qualcosa di nuovo oppure gli dare ciò che tu pensi che vogliono. Per me i bravi editori sono sempre quelli che vogliono fare conoscere agli altri delle cose nuove, e questo continua oggi anche con qualche editore, anche in Italia. Ci sono stati in Italia molte figure di gentleman publishers come Bompiani, come Einaudi, queste persone sono molto vicine agli eroi del mio libro, credo. Parlando molto efficacemente della fiera di Francoforte, lei scrive che gli europei a un certo punto appaiono disperati per quello che brutalmente potremmo chiamare una sorta di imperialismo culturale o editoriale americano, e questo un pochino completa quello che diceva sull'editoria italiana. Gli spazi si fanno sempre più stretti dinanzi al dilagare del prodotto americano. Io trovo che è una fatta storica che dopo la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, l'America ha invaso l'Europa economicamente e anche culturalmente. E questo ha cambiato le cose per tutti, e credo che si diminuisce un po', ma devo dire che è un fatto culturale di un certo imperialismo culturale che continua, credo. E un'altra tendenza che si sta manifestando nel nostro paese, di cui le parla per l'editoria americana, è la tendenza alla concentrazione. Come sa, in Italia siamo in un periodo in cui si parla molto di concentrazione editoriale. Come la vede lei la situazione? Sì, in Italia c'è la possibile aderenza di La Rizzoli alla Mondadori. Questo è un riflesso, credo, di ciò che sta arrivando da noi, non solo in editoria, ma in tanti tentativi. Al termine del suo libro, quando parla del successo del libro di Ida Perkins, lei scrive che la poetessa, che è una delle protagoniste del suo libro, a un certo punto appare essere più avanti rispetto al pubblico al quale si rivolgeva. Lei scrive: quella folla trasandata in giacche di velluto e scarponcini, in pratica quel che restava dell'aristocrazia letteraria, sembrava disperatamente fuori moda in confronto a colei che era venuta a celebrare. Ecco, c'è questa differenza profonda tra i grandi artisti e il pubblico di riferimento, che è un pubblico ormai che non capisce neanche l'innovazione, forse. Ma non trova che molte volte gli artisti sono in un diverso tempo degli altri, o avanti o dietro. E cioè una cosa mirabile, perché gli artisti possono farci vedere cose che noi nella vita di ogni giorno non vediamo. E ho voluto riferire un po' a questo. Dicevo all'inizio che lei è un grande editore americano. Allora, fra Paul, Homer e Sterling, qual è di più Jonathan? Oh, assolutamente Paul, perché Paul è il cadet, come diciamo, è il piccolo ragazzo che entra nel grande mondo signorile degli altri e vede con occhi aperti, grandi occhi, come diciamo, i fatti e misfatti di questi signori. Io sono stato così quando ero giovane, veramente. Grazie a Jonathan Galassi, autore de La Musa. Buona serata. Buona serata a lei, grazie. Un romanzo di cui sono protagonisti anche i libri è Storia della pioggia di Niall Williams, pubblicato da Neri Pozza, 368 pagine, 17,50 euro, tradotto da Massimo Ortelio. Qua siamo in Irlanda, dove Ruth, la giovane protagonista, già c'è ammalata, praticamente passa le sue giornate in una mansarda della vecchia casa di famiglia, e nella sua stanza è circondata da 3.958 libri che sono stati raccolti dagli antenati, libri che legge avidamente e attraverso i quali vuole ricostruire la storia della famiglia. Sono soprattutto gli autori romantici ad affascinarla in modo particolare, e aggiunge la protagonista: amo Robert Louis Stevenson perché ha detto che si è felici quando ci si dimentica di sé, perché viaggiava con la fantasia in cerca d'avventura pur giacendo a letto nello stadio iniziale della consunzione. Lo amo perché si definiva un naufrago sulla terraferma e da giovane aveva attraversato la Francia dormendo sotto le stelle. Attraverso queste letture, in effetti, Ruth conquisterà tutti gli elementi per raccogliere le vicende della famiglia, una famiglia particolarmente eccentrica, gli svitati della parrocchia saranno ironicamente definiti, e di cui la protagonista racconta le vicende mentre fuori continua continua inesorabilmente a piovere. E sentiamo come Ruth spiega il nesso tra la lettura, la creazione dell'autore e la storia familiare. È questo che so. La pioggia diventa il fiume che sfocia in mare e diventa la pioggia che diventa il fiume. Ogni libro è la somma dei libri letti dallo scrittore. Charles Dickens era uno scrittore perché suo padre possedeva una piccola biblioteca e perché la solitudine non riguarda solo Robinson Crusoe o Don Quixote. Ogni libro contiene in sé ogni altro libro ed è una biblioteca o un fiume senza fine. Nel mio libro ci sono tutti i libri letti da mio padre. Così il suo spirito sopravvive e sopravvive il mio, perché esiste una comunione inspiegabile tra lettori e scrittori. E sebbene gli scrittori scrivano e falliscano e riscrivano e falliscano di nuovo, è il fallimento che conta. Andare controcorrente e compiere il balzo, e il suo balzo, il mio balzo, inspiegabilmente lo fa atterrare qui. Parleremo tra poco di viaggi, allora cominciamo con un libro di Pino Di Branco, che è uno scienziato di professione e un letterato per vocazione, che si intitola L'ombra della Fenice, con un racconto di Massimo Bontempelli pubblicato dalla Vita Felice, 70 pagine, 8,50 euro. Qui si parla di un libro senza lettori o addirittura di pseudolibri, cioè di libri che forse non sono stati neanche scritti, di libri che forse non sono mai esistiti ma di cui si parla molto. Per esempio si parla del Tribus Impostoribus, il ben noto trattato dei tre impostori, libro maledetto che mette sullo stesso piano Mosè, Gesù e Maometto, trattandoli da bugiardi, imbroglioni, profittatori della credulità popolare, fino al punto da influenzare tragicamente tutta la storia dell'umanità, un libro al quale avrebbe messo mano addirittura Federico II. Oppure un altro libro, quello che ci insegna a visitare Napoli rimanendo sempre all'ombra. Questo è un libro fantasma di cui parla Dumas. E proprio questo libretto è considerato, spiega l'autore che cita uno studioso napoletano, è considerato dai bibliofili napoletani una sorta di araba fenice, che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. E questa vicenda di questo libro ha ispirato appunto Massimo Bontempelli con la novella che chiude questo libro, L'ombra e il sole, che parla appunto di una guida che è un metodo per girare a Roma d'estate senza prendere sole, quindi particolarmente adatto a queste settimane. Un libro di cui viene narrata la maniacale genesi e il malinconico esito. Ho cominciato parlando di un romanzo che fotografa e si svolge in un particolare ambiente di lavoro, quello dell'editoria di New York, e allora ve ne propongo uno di taglio molto diverso che si svolge in un altro specifico ambiente di lavoro molto diverso. Qui infatti siamo nella grande fabbrica italiana a cavallo fra gli anni 50 e 60, ed è un libro sorprendente, un libro che è stato un'autentica sorpresa, perché l'autore è Felice Mortillaro, scomparso 20 anni fa, che tutto sapevamo che fosse tranne che uno scrittore di romanzi. Mortillaro fu uno dei protagonisti da parte padronale, come si diceva allora, delle relazioni industriali, fu anche consigliere delegato di Federmeccanica, cioè dell'associazione che raccoglie gli imprenditori nel settore della meccanica, e Mortillaro aveva scritto libri, articoli, fra l'altro molti sul Sole 24 Ore, e adesso appunto si scopre che aveva scritto anche un romanzo tra l'altro fluviale di quasi 600 pagine che aveva lasciato incompiuto e inedito. Quelle carte sono state prese in mano dalla famiglia, soprattutto dal figlio Duccio, e è stato sfrondato il romanzo, è stato scelto un finale tra i tre che aveva predisposto lo stesso autore, e adesso il libro compare a cura appunto di Duccio Mortillaro. Si intitola L'ingegnere d'anime, pubblicato da Olivares, 252 pagine, 20 euro. È un libro bello e interessante, oltre che sorprendente, bello per come è scritto, interessante per l'ambiente che fotografo, quello appunto delle grandi fabbriche. In questo caso si tratta di una società pubblica nella metà degli anni 50. Qui Mortillaro, alias Giovanni Ledol, il nome del protagonista, è assunto agli inizi della carriera per introdurre in quella fabbrica le cosiddette relazioni umane, e per questo si sente definire ingegnere d'anime. In che senso? Per alcuni capi l'ingegnere d'anime dovrebbe tenere a bada gli operai comunisti e magari cercare di convertirli, per lui si tratta invece di tutt'altro, e mette in bocca a un suo superiore le proprie convinzioni circa la propria missione. Gli dice infatti questo signore: mi stia a sentire, le vere relazioni umane sono queste: rendere il lavoro meno faticoso, più ordinato, più pulito, più sicuro e meglio pagato, perché chi produce di più ha diritto ad essere pagato di più, se lo ricordi. La maturazione professionale avviene in parallelo con l'evoluzione dell'uomo, con le ritualità sindacali, con le trasformazioni del paese che comincia a fremere per le prime aperture al centro-sinistra. Insomma, uno troviamo nel libro uno spaccato dell'Italia del lavoro, viste da un taglio in certi momenti addirittura poetico o ironico, come era spesso nella personalità negli scritti di Mortillaro. Troviamo una traccia di questo, per esempio, nell'indimenticabile descrizione della figura di un fatuo direttore delle relazioni industriali, come si sarebbe poi chiamata questa figura, giunto all'incarico per raccomandazione, lettore di un solo libro e utilizzatore di un'unica formula. Abbiamo parlato di centrosinistra, allora vi segnalo il libro di uno studioso importante, uno dei padri della sociologia italiana, Franco Ferrarotti, di cui Solfanelli pubblica Il primo centrosinistra, le ragioni di una sconfitta, 132 pagine, 10 euro, curato da Fabrizio Federici. Questa è la raccolta di una serie di articoli che Ferrarotti scrisse nel 1960 sul quotidiano romano La Giustizia, che era diretto allora da Michele Pellicani, un ex comunista. Il giornale era un giornale riformista di ispirazione socialdemocratico, sul quale scrissero molte firme importanti della tradizione riformista italiana. E qui troviamo la storia di quei mesi drammatici che si concluderanno con gli eventi di Genova, del governo Tramboni, eventi visti attraverso la penna di Ferrarotti, che conosce molto bene la politica egli stesso, perché in quel periodo era entrato in Parlamento come parlamentare del movimento di comunità, quello fondato da Adriano Olivetti. E perché si parla di sconfitta? Perché in quegli anni perse appunto la prospettiva di un vero riformismo di stampo europeo. E scrive Ferrarotti: scontavamo le ideologie, ci si muoveva ormai e anticipavamo un'esigenza post-partitica per un riformismo pragmatico e idealista nello stesso tempo. Ma tutto ciò non avvenne. E adesso sospendiamo per un attimo, ci sentiamo fra qualche minuto. A Spunti di Vista ci occupiamo dei mille aspetti dell'attualità, quelli che incidono su come viviamo, sulla qualità della vita, i confronti e i modelli con gli altri paesi. Sono Irene Zerbini e vi aspetto con Spunti di Vista tutti i giorni dalle 7 alle 10 qui su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Domenica scorsa è scomparso a 73 anni un famoso scrittore italiano, Sebastiano Vassalli, autore di romanzi fortunati, per esempio La Chimera, che ha vinto il premio Strega nel 1990. Vassalli era genovese di nascita ma novarese di adozione, e proprio quest'anno, tra poche settimane, gli sarebbe stato attribuito il premio Campiello alla carriera. Tra l'altro, invece, il 3 settembre uscirà da Rizzoli postumo, purtroppo ormai, il suo ultimo libro, Io Partenope. E da poco era uscito un libro che era nella lista di quelli di cui vi avrei parlato quest'estate, perché ci offre una lettura appassionante e particolare di una terra che magari sta accogliendo molti di voi in questo periodo, cioè l'Alto Adige. Dell'Alto Adige e delle sue vicende storiche Vassalli era rimasto affascinato. Già nell'85 aveva pubblicato Sangue e Suolo, in cui insisteva sulle distorsioni delle quote etniche, e un libro che aveva allora causato molte polemiche. L'ultimo, quello di cui vi parlo oggi, invece si intitola Il confine, i 100 anni del Sud Tirolo in Italia, pubblicato ancora da Rizzoli, 148 pagine, 16,50 euro. I 100 anni di cui parla Vassalli nel sottotitolo cadranno, per la precisione, il 10 settembre del 2019, quando cadrà appunto un secolo dal Trattato di Saint-Germain-en-Laye, dal quale iniziò una nuova storia del Sud Tirolo, una terra che aveva affascinato, che oltre che per la sua bellezza, per la sua storia, lo scrittore. E infatti Vassalli in questo libro scriveva di esserci capitato 32 anni fa quasi per caso, perché doveva scrivere delle note di viaggio per una rivista, e uno che per caso si è trovato ad assistere, continua, tra quelle montagne, all'ultima stagione della paura e dell'odio, quando la parte soccombente, o che comunque si sentiva tale, era quella degli immigrati italiani ormai arrivati alla terza generazione. E ora, conclusa la stagione dell'odio e senza particolare interesse o appartenenza, Vassalli non voleva ripercorrere la storia di quella unione, ma piuttosto spiegare le origini della decisione di modificare i confini, una scelta che era comprensibile per l'epoca. Dopo quella decisione seguirono anni di autentica follia, soprattutto per il peso rappresentato dai totalitarismi fascista e nazista, poi il dopoguerra, l'autonomia, gli anni delle bombe e delle fandonie storiche che, secondo Vassalli, hanno allignato con particolare fortuna in Sud Tirolo, determinando l'autore per l'autore di rivisitare questi 100 anni e di proporre alcune correzioni. Per esempio, Vassalli sostiene in questo suo ultimo, anzi penultimo libro, che la proporzionale etnica sia l'unico modo per raddrizzare le enormi ingiustizie del passato e che sia giusto applicarla, dandosi però una scadenza, altrimenti, aggiunge, si finirà per creare una società malata. E sentiamo le prospettive che Sebastiano Vassalli auspicava nelle righe conclusive di questo suo libro. Comunque vadano le cose, questa regione dovrà essere un ponte tra nord e sud, tra cultura tedesca e cultura latina, tra un passato che non può ripetersi e un futuro ancora da costruire. 100 anni fa una prospettiva del genere era impensabile, perché il Sud Tirolo era un paese tedesco di montagna, chiuso in se stesso e geloso delle proprie caratteristiche, delle proprie tradizioni, del proprio isolamento. L'arrivo degli italiani ha sconvolto un equilibrio millenario e ha aperto 3 possibili prospettive. La prima, quella di soccombere agli invasori, rinunciando alla propria cultura e alla propria lingua, è stata superata. La seconda prospettiva, quella di ricacciare gli invasori per tornare alla situazione precedente il trattato, è abbastanza remota e potrebbe verificarsi soltanto in un contesto più ampio di ritorno generale al passato, con nuove guerre, nuovi confini, nuove migrazioni di popoli. La terza prospettiva, infine, la ricerca di un nuovo equilibrio, è la strada che fino a questo momento si è scelto di percorrere con l'autonomia. Gli italiani restano e diventano un po' tirolesi. I sud tirolesi non diventano un po' italiani, perché, sto per scrivere una cosa terribile, lo sono già. Poco e senza rendersene conto, ma lo sono. Anche senza tirare in ballo molti dei loro cognomi, c'è qualcosa nella loro cultura che li rende diversi da altri popoli di lingua e di cultura tedesca. Qualcosa che viene da lontano, dagli Etruschi, dalla coltivazione della vite, dal cielo chiaro del sud. E adesso cominciamo a parlare di vacanze con un romanzo intitolato appunto I Vacanzieri. L'autrice è Emma Straub, pubblicato da Rizzoli, 302 pagine, 18 euro ed è tradotto da Anna Mioni. Siamo qui a Maiorca, dove approda una famiglia americana, dove si svolgerà un complicato gioco di coppie, a partire da quelle del figlio maggiore, dei genitori, e quelle di un amico omosessuale della moglie, e poi quella che coinvolgerà anche i figli. Allora la vacanza diventa un microcosmo descritto con ironia e talvolta con perfidia per trasmettere la morale che alla fine i problemi ci possono rendere migliori. Insomma, se fate vacanze di famiglia, questo è il libro che fa per voi. Un altro titolo estivo è L'estate del bene e del male di Miranda Beverly Whitmore, un'altra scrittrice americana, pubblicata da Sonzoni, 412 pagine, 18,50 euro, tradotto da Maura Parolini e Matteo Curtoni. Qua abbiamo la cronaca di una vacanza trascorsa da Mabel nella casa della ricca famiglia della compagna di stanza al college. La vita le appare piacevole, quasi un sogno, ma a lungo andare, dietro lo schermo di imperturbabile serenità di questa agiatissima famiglia americana che la ospita, compariranno le prime crepe che finiranno per coinvolgerla direttamente. Ne nasce un romanzo che abbandona i toni lirici luminosi dell'inizio per scivolare verso un clima psicologico molto più tormentato, ricco di sfumature sorprendenti, che ci trasmetterà un clima assai meno idilliaco. A proposito di viaggi, vi segnalo innanzitutto una descrizione letteraria di Buenos Aires, della vecchia Buenos Aires, nel libro di Roberto Arlt, che è uno scrittore argentino, di cui Del Vecchio pubblica Acqueforti di Buenos Aires, 292 pagine, 15 euro, tradotto da Marino Magliani e Alberto Prunetti. Queste acqueforti risalgono al 1933, quando Buenos Aires visse uno dei momenti di più intensa trasformazione urbanistica e sociale, e dell'acquaforte queste descrizioni hanno la capacità di sintesi accoppiata a quella di cogliere i minimi particolari della scena, e così emerge un ritratto di Buenos Aires particolarmente struggente e affascinante, ricco di scene, di personaggi, di situazioni, anche di macchietti, di riflessioni che vanno al di là di Buenos Aires degli anni 30 per risultarci quasi familiari. Per esempio, sentiamo il paradossale comizio che Arlt raccomanda ai politici che vogliono aver successo, un comizio nel quale si promette di rubare a man bassa. Discorso che avrà successo. Ecco il testo. Signori, la mia aspirazione è diventare deputato, perché voglio rubare alla grande e sistemarmi al meglio. Il mio scopo non è salvare il paese dalla rovina in cui è stato gettato dalle precedenti amministrazioni, complici di svergognati. No, signori, non è questo il mio elementare proposito. Io desidero calorosamente, nel mio intimo, di contribuire al saccheggio delle casse dello Stato. Aspirazione nobile che, comprenderete, riposa nel cuore di ogni uomo che desideri candidarsi a deputato. Rubare non è facile, signori. Per rubare si devono possedere determinate caratteristiche che, credo, non siano presenti nei miei rivali. Innanzitutto bisogna essere un cinico perfetto. E io lo sono, non dubitino, signori. In secondo luogo, bisogna essere un traditore. E io lo sono, signori. Bisogna sapersi vendere in maniera opportuna, non come uno svergognato, in maniera più evoluta. Mi permetto il lusso di coniare il termine che diventerà un eufemismo di tradimento: vendita evoluta. Espressione necessaria in questi tempi in cui vendere il paese al miglior prezzo è un lavoraccio duro e improbo. Perché è sottointeso, signori miei, che la nostra posizione, vale a dire la posizione del paese, in questo momento storico non si piazza meglio d'un piatto di lenticchie. Ora, credetemi, signori, sarò anche un ladrone, ma piuttosto che vendere il paese per un piatto di lenticchie, preferisco conservare la mia onestà. Comprendano la grandezza del mio sacrificio e si rendano conto che sono un candidato perfetto per diventare deputato. Certo, voglio rubare, ma chi non vuole rubare? Ditemi voi chi è lo sfacciato che in questi momenti di confusione non vuole rubare. Se esiste un uomo tanto onorato, sono disposto a salire in croce. Anche i miei colleghi vogliono rubare, indubbiamente, ma non sanno farlo. Venderanno il paese per due spiccioli e questo è ingiusto. Io venderò la mia patria, ma la venderò bene. Sapete che le casse dello Stato sono all'asciutto, cioè che non hanno un nichelino per pareggiare il debito estero. Ma io dividerò il paese in rate mensili, da Ushuaia al Chaco boliviano. E non trafficherò solo con lo Stato, ma mi accorderò con i commercianti, con i sofisticatori di alimenti, con i faccendieri. Agli appassionati di montagna segnalo la collana Piccola filosofia di viaggio dell'editore Ediciclo e vi segnalo tre titoli di Enrico Camanni: L'incanto del rifugio, piccolo elogio della notte in montagna, 94 pagine, di Franco Michieli, La vocazione di perdersi, piccolo saggio su come le vie trovano i viandanti, di Gianni Gasparini, Il passo delle stagioni, piccolo diario della natura alpina. Anche questi sono di 92-94 pagine, ciascun libro costa 8,50 euro. Il primo di Camanni, che è giornalista e scrittore, parla quindi del fascino del rifugio, e il rifugio che è quel posto in cui si desidera eternamente, scrive l'autore, e qui troviamo avventure ma anche riferimenti per esempio cinematografici al rifugio. Si parla del film di Fred Zimmerman, 5 giorni un'estate, o citazioni letterarie come la poesia di Antonia Pozzi, Rifugio, che adesso ascolteremo. Nebbie e il tonfo dei sassi dentro i canali, voci d'acqua giù dai nevai nella notte. Tu stendi una coperta per me sul pagliericcio, con le tue mani dure me l'avvolgi alle spalle, lievemente, che non mi prenda al freddo. Michieli, invece, che è un geografo e scrittore, ci richiama l'esigenza di non perdere la dimensione dell'avventura nel rapporto con la montagna, perché, scrive, andare nella natura senza mappa e dover attendere in movimento che un segno ci orienti ridesta la sensibilità per quelle parti dell'esistenza che la ragione non raggiunge. Allora, forse, conclude, usando noi stessi come strumenti, al pari degli umani delle origini, dimensioni dimenticate ci torneranno familiari e preziose. E infine Gasparini, che è un sociologo e un poeta, ci aiuta a leggere il patrimonio naturalistico che caratterizza ogni stagione, invitandoci a trovare una chiave per contemperare natura e cultura. E sentiamo da questo libro l'emozione di un improvviso irrompere di colori nell'estate della valle di Champourchet in Val d'Aosta. Salendo a fine agosto a un colle nella valle di Champourchet, in un ambiente ormai quasi privo di vegetazione floreale, mi sono imbattuto improvvisamente in una siepe di alte genziane che costeggiavano il sentiero per una ventina di metri, digradando nel pendio ripido di prato e bosco. La genziana asclepiadea è diversa da tutte le altre che si possono trovare in montagna. Ha steli sottili e molto alti, in cima ai quali fioriscono in quantità i calici blu elettrico e allungati, tipici delle genziane. Si tratta di un fiore non frequente, flessuoso e di rara eleganza. È stato, potrei dire, un colpo di bellezza, messo in scena da decine di fusti dove la luce illuminava in modo differente i calici, accentuando sfumature che andavano dal blu al viola. Ho pensato che di fronte a un simile incontro non può reggere, alla fine, neppure l'opera dell'arte, della pittura o della scultura, tra l'altro, che pure apprezzo moltissimo. Non c'è sala del Louvre, mi sono detto, che possa competere con la bellezza prorompente della natura. Di certe sue manifestazioni, come quella che offre una siepe di genziane blu-viola dai lunghi steli, fiorite alla fine della bella stagione. E a questo punto... Confettino. Completiamo questa presentazione di libri vacanzieri con Le vacanze del signor Rino di Raphael Beau e Aureline Re, pubblicato da Valentina Edizioni, 16,90 euro. Questo libro di poche pagine ma di grande formato, con la meritata vacanza di un rinoceronte dallo zoo. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione e Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.